Cerco chi mi darà la gioia che non ho. Cerco chi capirà l'amore che gli do. Se il mondo piange intorno a me, tranquillamente dico che non butto al vento i sogni miei. Ancora no, ancora no. No.